Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Alla vista impensata di quel cameo, famoso mio dono al mio balio Silvestro e chiaro documento della sua persona, rimasi senza respiro, come se d'un tratto, là sulla spiaggia, mi si fosse dissepolta innanzi agli occhi una valle dei re o qualche simile chimera sotterrata. Di lì a un istante, tuttavia, riconoscendo la realtà, mormorai «Silvestro!» e pronto gli ricambiai i suoi due baci sulle guance con la rallegrante sicurezza che lui, almeno essendo il mio balio legittimo, non m'avrebbe accusato per quel paio di bacetti di dannargli l'anima all'inferno. E nel momento stesso che lo baciavo, mi rendevo conto che in verità la sua presenza qua procida in questo giorno della mia festa non era poi, anche se nuova, tanto strana. Casomai la stranezza e anche l'ingratitudine era stata la mia, di aver del tutto dimenticato, nella presente ricorrenza, proprio lui, che mai lasciava passare i miei compleanni senza farsi vivo in qualche modo, magari con una semplice cartolina d'auguri. Ma negli ultimi tempi io pensavo troppo ad altre persone per conservare anche un solo pensiero per lui. Egli mi spiegò che, trovandosi richiamato sotto le armi, aveva approfittato di una licenza e anche del ribasso concesso sui piroscafi ai militari per fare questa gita, che si riprometteva da 10 anni circa, e venire a portarmi gli auguri di persona. Mi raccontò poi che poco fa, appena sbarcato a Procida, nell'attraversare la piazza, aveva udito ripetere animatamente, in un gruppo di donne e ragazzette, il nome di Arturo, e all'apprendere che una signora, là fra le altre, era la mia matrigna, la quale andava cercando di me, le si era presentato. Quindi le aveva proposto di tornare per suo conto a perlustrare la riviera, mentre che lei seguitava le sue ricerche in giro per la piazza. Qua Silvestro mi consigliò di far sapere subito alla matrigna il mio ritrovamento, giacché quella povera femmina s'era messa in un'ansia esagerata. «Deve avere», egli soggiunse, «un carattere nervoso assai». «No», io dissi allora ridendo, «di carattere non è nervosa, però si capisce che sta in pena. Essa mi crede morto». «Morto!» Io alzai una spalla, giudicando meglio non aggiungere troppe spiegazioni. Comunque, trovai giusto il consiglio di Silvestro e mi spinsi subito, assieme a lui, fin verso la lingua del faro. Là, vedendo da lontano una di quelle ragazzette di prima, da me conosciuta di vista, le demmo una voce. Accorse e io le dissi «Va subito alla piazza e cerca la signora Gerace. Dille che m'hai visto qua insieme all'amico mio e che prima io stavo lassù in cima alle rocce a riposarmi dietro a quei cespugli. Dille che adesso io e l'amico mio abbiamo da parlare un poco assieme per conto nostro e che perciò lei, intanto, se ne torni tranquilla a casa che noi la raggiungeremo più tardi». Questo discorso io riuscii a farlo tutto d'un fiato. Ma partita che fu la ragazzina per la sua commissione, mi buttai a sedere in terra e supplicai Silvestro, per pietà, prima di ogni altra cosa, di correre alla bottega dell'angolo a comperarmi del mangiare, perché dalla fame io rischiavo di cadere disteso. «Tanto», aggiunsi, «lo avrei rimborsato ad ogni spesa prontamente, perché a casa possedevo un capitale di soldi». Subito quel perfetto balio mi procurò dalla bottega delle uova fresche, formaggio fresco e pane, che mi fecero l'effetto di un elisir di vita. Poi tornammo assieme verso la mia grotta, alla quale io, oggi, m'ero affezionato come fosse la mia tenda campale generalesca o altro simile quartiere di valore. E là ci sedemmo sul mucchio dei cordami a conversare comodamente. O homem na redoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse homicídio que nele guardar. Mas a razão prevalece, impõe seus limites, e ele se permite esquecer de lembrar. Esquecer de lembrar. É como se passasse a vida inteira eternizando a miragem, como um capuz negro que cega e o falcão selvagem. O falcão selvagem. Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora extinte a repressão. Diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Sótão. Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora extinte a repressão. Me diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Silvestro mi informò che doveva ripartire da Procida domani stesso all'alba col primo piroscafo perché purtroppo la sua licenza scadeva. Gli domandai allora perché mai fosse tornato militare. «E cominciamo a richiamare la gente», rispose, «in vista della guerra». «Quale guerra?» io dissi. «Come? Non sai niente della guerra? Ma non l'hai sentita alla radio, letto sui giornali?» Io in verità non vedevo mai i giornali. Mio padre diceva che erano roba fetente, pieni di fandonie dozzinali e di chiacchiere idiote, al punto che se ne sentiva urtato perfino da adoperarli al cesso. E in quanto alla radio in paese, è vero, da qualche tempo ne esisteva almeno una, tenuta da quello stesso bottegaio che un tempo teneva il gufo. E qualche volta, passando, era pure capitato di udirla parlare e cantare. Ma in quelle poche occasioni, essa trasmetteva canzonette o varietà, niente di serio. In sostanza, io conoscevo la storia fino dai tempi degli antichi egiziani e le vite degli eccellenti condottieri e le battaglie di tutti i passati secoli, ma dell'epoca contemporanea non sapevo nulla. Anche quei pochi segnali dell'epoca presente che arrivavano all'isola, io le avevo appena intravisti senza nessuna attenzione. Non m'aveva incuriosito mai l'attualità. Come fosse tutto cronaca ordinaria da giornali, fuori della storia fantastica e delle certezze assolute. E adesso, all'udire le notizie mondiali che mi dava Silvestro, mi pareva d'aver dormito per 16 anni, uguale alla ragazza della favola. In un cortile di erbe selvagge e ragnatele, fra civette e gufi, con uno spillone fatato confitto nella fronte. Egli mi andava spiegando che nonostante una recente intesa di pace firmata con cerimonie grandiose dalle potenze, la guerra mondiale, in realtà, era imminente, senza rimedio. Poteva prorompere da un mese all'altro, forse da un giorno all'altro, e anche chi era contrario, come lui, ci andava di mezzo in questo imbroglio demoniaco. Udite simili novità, io rimasi qualche istante a riflettere, chiuso nei miei pensieri. E quindi rivelai a Silvestro le mie decisioni. Gli confidai anzitutto che certe mie ragioni segrete, molto severe, anzi tragiche, mi vietavano di trattenermi sull'isola, fosse pure un solo giorno ancora. Perciò intendevo partire, assieme a lui, col primo piroscafo domattina all'alba, per non ritornare sull'isola forse mai più. Se poi davvero s'avanzava prossima la guerra, io ero assolutamente deciso a presentarmi volontario fin dal primo giorno del nostro intervento nazionale. Volevo partecipare alla guerra a qualsiasi costo, anche a costo di raggiungere clandestinamente il campo di battaglia, nel caso che la mia domanda per motivi d'età fosse stata respinta. Silvestro ascoltò con profonda serietà questo mio discorso. Per discrezione, egli evitò di farmi qualsiasi domanda sui motivi segreti che mi allontanavano da Procida. Ma senza bisogno di conoscerli, comprese che si trattava di motivi giusti e gravi. e accolse con favore, anzi contentezza, la mia decisione di partire l'indomani assieme a lui. Non parve invece altrettanto favorevole alla seconda parte del mio programma, e cioè alla mia intenzione di arruolarmi volontario per la guerra vicina. Vedendolo assai perplesso e scontroso su questo punto, io gli dichiarai allora, col mio fervore massimo, che secondo me un uomo non era un uomo finché non aveva fatto la prova della guerra, e che rimanere a casa senza combattere, mentre gli altri combattevano, per me sarebbe stata una noia e un disonore. Egli mi stava a sentire poco convinto, con un'espressione riluttante. Alla fine disse che, forse, la mia idea poteva valere per le guerre antiche, ma le guerre moderne, secondo lui, erano un'altra cosa. A quanto ne capiva lui, disse, la guerra moderna era tutto un macchinario di macelleria e un orrendo formicaio di sfaceli, senza nessun merito di valore autentico. Riguardo poi alla guerra attuale in questione, nell'opinione sua, le due parti che la combattevano in linea generale, vale a dire dal punto di vista della vera causa, non avevano ragione né l'una né l'altra, ma fra le due, quella che aveva torto era senz'altro la parte nostra. E combattere a questo modo, senza le ragioni ma col torto, era come cantare gratuito con una spina in gola. Un disastro senza nessun compenso. Queste sue parole di buon senso mi fecero un poco meditare, ma anche ridere. Ad ogni modo gli replicai risolutamente che io, per adesso, non mi curavo molto della ragione o del torto. Ciò che volevo io, intanto, era di combattere per imparare a combattere, come un samurai dell'Oriente. Il giorno che fossi stato padrone sicuro del mio valore, avrei scelto la mia causa. Ma per arrivare a tale padronanza, dovevo passare una prova. La prova che mi si offriva era questa guerra. Ed io non volevo mancarla, non mi curavo d'altro. «Questo», egli osservò in un tono di incertezza amara, «è come dire che uno cerca di farsi ammazzare per niente». Quindi mi domandò, scrutandomi serio, «Ma perché diavolo hai voglia di farti ammazzare per niente?» Io arrossì, come se egli denunciasse uno scandalo misterioso, fantastico, che andava taciuto. Ma subito mi ripresi con le mie antiche idee e, pieno di passione, gli spiegai che, fin da quando ero piccolo, c'era una sfida in sospeso fra me e la morte. Come certi ragazzini diffidano del buio, così io della morte, e della morte sola. Questo schifo della morte mi avvelenava la certezza della vita, e finché io non avessi imparato la spensieratezza della morte, non potevo sapere se veramente ero cresciuto, peggio, se ero un valoroso o un vigliacco. Qui gli esposi in breve le mie idee sulla vita e anche le certezze assolute. Di queste me ne ero quasi scordato negli ultimi mesi e mi parve, risuscitandole con lui, di rimediare a un tradimento. Me ne riappassionai parlandone ed egli, ad ascoltarle, s'appassionò quanto me. D'un tratto, con un sorriso confuso, ingenuo, mi confidò che le mie idee si accordavano meravigliosamente con le sue, e cioè con la rivoluzione del popolo. Poiché lui, disse, era un rivoluzionario, e adesso si incantava al sentire che io, da solo, qua Procida, senza mai parlare con nessuno, avevo inventato per conto mio i medesimi pensieri dei migliori maestri. Nel farmi tali dichiarazioni, Silvestro denotò chiaramente nel viso e nel tono la sua grande ammirazione per Arturo Gerace. D'altra parte, poi, si vedeva chiaro nei suoi modi che questa sua ammirazione per Arturo non principiava da adesso, ma già doveva preesistere, si può dire, da sempre, e altro non aver fatto in eterno che aspettare delle nuove occasioni per confermarsi. Essa era votata a me, illimitata e quasi magica, simile in certo modo, per intenderci, a quella da me provata per William Gerace. In conclusione, io convinsi con la mia foga Silvestro di tutto ciò che mi piaceva, anche della mia necessità morale di combattere all'avventura nella prima guerra disponibile. Chissà, fantasticammo pieni di speranza, che non capitiamo assieme nello stesso reggimento. Invece, la nostra speranza poi non si avverò. Io fui messo in una compagnia di giovani circa della mia età e lui altrove, coi richiamati più anziani. Da ultimo, egli trasse dalla tasca il regalo che mi aveva portato per la mia festa e di cui si era dimenticato fino a questo momento, distratto da troppe emozioni. Una sciarpetta di lana rossa, lavoro di sua moglie, e subito io me ne cinsi il collo con soddisfazione. Così, egli mi fece sapere che da poco s'era sposato con quella che già per anni era stata la sua ragazza. Adesso che lui stava sotto le armi, la moglie si era trasferita nella casa di sua madre, in un paesetto vicino a Napoli. E se volevo, egli mi disse, i primi tempi potevo essere ospite loro. Tanto col tram da quel paesetto si poteva arrivare a Napoli in pochi minuti. In questa conversazione si era fatta sera e Silvestro mi ricordò che era tempo ormai di salire a casa, secondo la promessa da me fatta alla mia matrigna. A ciò io sentii il rossore salirmi alla faccia, ma per fortuna era buio ormai e Silvestro non se ne avvide. Sentivo che la mia voce avrebbe tremato nel discorso che stavo per fare, ma tuttavia lo feci risolutamente. «Senti», dissi, «io per motivi miei che non posso confidare a nessuno, a casa, non devo ritornare più. Va tu solo, parla con lei, falle credere la bugia seguente, che io sono già partito col piroscafo delle 4:30 che va a Ischia, e che tu domattina mi raggiungerai a Ischia e di là proseguiremo assieme per Napoli, da dove io poi subito mi imbarcherò per l'estero. Dille che le mandi il mio addio, perché io con lei non ci rivedremo per molto tempo, se mai più ci rivedremo, e che si ricordi di me e mi perdoni i dispiaceri che le ho dato. E saluta anche il mio fratello Carminiello per me. Chiedi a lei che ti dia una valigia, dille che me la porterai tu domattina a Ischia. E vai in camera mia e prendi tutti i fogli scritti che ci trovi e tutti i soldi miei, che ce ne sono un mucchio in camera mia, sparsi fra i libri, per i cassetti. Mi raccomando, i fogli scritti, prendili tutti, non lasciarne nessuno, che quelli sono importanti, perché io sono uno scrittore. Tu, se vuoi, stanotte puoi dormire lassù a casa, che la camera tua è sempre rimasta uguale, con la branda e il resto. Però, prima di andare a dormire, dovresti portarmi delle coperte e qualcosa da cena. Difatti io, fino alla partenza di domattina, non ci voglio tornare nemmeno di passaggio alla piazza, perché là tengo troppi ricordi. E stanotte dormirò in questa grotta dove starò abbastanza comodo. Tanto per fortuna non fa freddo e scirocco. Silvestro promise che avrebbe seguito ogni commissione perfettamente. Però, disse, perché io dormivo giù nella grotta, anche lui, invece che a casa, per non lasciarmi solo, voleva dormire nella grotta assieme a me. Neppure 2 ore dopo, vidi avanzare dal fondo tenebroso della spiaggia il chiarore oscillante d'una lanternetta a candela e veloce mossi incontro a Silvestro che ritornava, reggendo la lanternetta davanti a sé, più carico della Befana. Oltre alla valigia piena di manoscritti e di vettovaglie e a parecchie coperte di lana pesante, portava anche una coperta imbottita e perfino un secchio di carbonella per intiepidire un poco l'aria umida della grotta. Una parte di questi rifornimenti quell'uomo previdente se li era procurati alla casa dei Guaglioni, ma una parte aveva preferito farseli prestare in paese per non dare sospetti alla mia matrigna, la quale doveva ignorare che io pernottavo sull'isola. Per prima cosa, appena gli fui vicino, gli domandai: «Le hai parlato? Come t'avevo detto?» Sì, rispose. E ti ha creduto? Sì, egli disse, ha creduto. E per il momento non gli domandai altro. Deponemmo la lanterna su un masso sporgente in un angolo della grotta, stendemmo l'imbottita sul mucchio di cordami bene sparpagliato in terra e ci sedemmo su questo letto improvvisato, ma abbastanza comodo, disponendoci alla cena. Fra i cibi svariati che Silvestro cavò dalla valigia, c'era involta in carta spessa da pasta una grossa pizza dolce, ed egli mi informò che la matrigna lo aveva pregato di portarmela a Ischia dicendogli che l'aveva fatta per la mia festa e che lei, tanto adesso, non aveva proprio voglia di mangiarla. Oltre alla pizza dolce, ella mi mandava in regalo, per il caso che io dovessi trovarmi in bisogno, tutti i suoi risparmi che Silvestro mi consegnò. Circa 450 lire annodate in un fazzoletto piuttosto sporco. Infine, ella aveva affidato a Silvestro, pregandolo di dirmi che io lo conservassi per suo ricordo, un orecchino spaiato, d'oro. Al ricevere dalle mani di Silvestro quel cerchietto d'oro, io arrossii. Mi buttai allora steso sull'imbottita e, stando giù col viso rovesciato in ombra, gli dissi di raccontarmi la sua scena con la matrigna precisamente come s'era svolta. Appresi dunque che lei, vedendolo arrivare solo alla casa dei Guaglioni, lo aveva guardato incerta, senza però domandargli di me. Poi, fin dalle prime sue parole, «Arturo vi manda a dire», aveva incominciato a sbiancarsi in faccia, ma pure aveva trovato la forza di mormorargli «Perché restate lì in piedi? Su, accomodatevi!» E s'era lei stessa seduta sulla sedia, dinanzi alla tavola di cucina. Dopodiché lui, in fretta, aveva terminato di dirle quanto doveva, e al sentire che io mi trovavo già imbarcato in mare, fuori di Procida, essa lo aveva guardato con due occhi grandi, seri e freddi, che sembrava non vedessero più. D'improvviso il suo pallore si era fatto innaturale, verde, come di morta, e senza aver emesso una sola parola, né un'esclamazione, né un sospiro, essa era svenuta, picchiando la fronte sul piano della tavola. In pochi istanti, tuttavia, si era rimessa in piedi. Anzi, per dire la verità, gli s'era raccomandata di non farmi sapere questo sturbo che l'aveva presa, del quale essa parlava balbettando confusa, come d'una vergogna, e lo aveva pure aiutato, muovendosi qua e là come un'ombra senza sangue, a preparare la valigia da portarmi a Ischia. A questo punto io, sempre giù, steso col viso al buio, interruppi Silvestro, pregandolo per favore di non parlarmi di lei d'ora innanzi mai più. Preferivo di non sentirmela più nemmeno nominare da nessuno d'ora in poi. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.